benvenuti al secondo numero di Indie Radio del mese di maggio 2011. In questo numero vogliamo soprattutto occuparci del referendum che si svolgerà il 12 e 13 giugno e che riguarderà la scelta di abrogare le norme che prevedono l'obbligatorietà per quanto riguarda la privatizzazione del rifornimento delle acque e che riguardano anche la questione del nucleare. Vogliamo soprattutto occuparci di quelle mancate informazioni provenienti dal mainstream e in particolare dal servizio di informazione pubblica, ovvero la RAI. Molti comitati spesso lamentano di questa mancata comunicazione, di questo oblio vero e proprio nel quale rischiano di cadere questi referendum. Sicuramente si tratta di scelte politiche, a nostro avviso, scelte politiche che mirano ad affossare questi referendum, che mirano dunque a sottrarre al popolo italiano la possibilità di abrogare delle norme che non piacciono. Certamente la battaglia è ancora aperta e Indie Media, Indie Radio vuole dare il proprio contributo per garantire un'informazione reale e concreta di quelli che sono i referendum e di che cosa significa votare il 12 e 13 giugno. La prima notizia di cui vogliamo darvi conto è quella che appare come articolo centrale sul sito di Calabria Indie Media. Dunque leggiamo questa: referendum, l'oblio dell'impero della comunicazione, una notizia composta dal collettivo di Calabria Indie Media e pubblicata il 22 maggio scorso. Una cappa di silenzio mediatico attanaglia le nostre vite e minaccia le nostre esistenze, impedendoci una scelta libera e consapevole. Ormai in Italia ci siamo tristemente abituati. Succede così per l'uso dei condom, per la procreazione assistita, per le scelte sessuali, per non parlare poi dei servizi come sanità e scuola in primis, picconati nel buio della stanza dei bottoni a suon di tagli. Sappiamo bene che, seguendo il TG, troviamo notizie ben edulcorate e modificate, se non taciute. Una prova tangibile è quello che è accaduto ultimamente coi fatti dei giovani studenti fiorentini, ad esempio. O, ancora meglio, oggi siamo un paese in guerra e non sappiamo di esserlo. A tutto questo siamo abituati, dunque. Ma in questi giorni la cappa mediatica scende inesorabilmente e minacciosa sui tre quesiti referendari. Blocchiamo il nucleare, sanciamo la pubblicità dell'acqua come bene comune, ma soprattutto il servizio pubblico stenta a dare spazio a questi temi. Pare che chi sta sopra le nostre teste ad alitare per governarci abbia deciso che si possano spendere tanti e tanti soldi pur di non abbinare i referendum alle amministrative. L'obiettivo è chiaro, i quesiti referendari devono fallire. Queste forze politiche che si appellano sempre più spesso al popolo, che sostengono di essere la voce del popolo, non fanno altro che impedire al popolo medesimo di esprimersi. Assistiamo a scene atroci, Berlusconi che fa candidamente delle ammissioni in pubblico circa la moratoria sul nucleare, mossa tattica per non far passare il referendum. La libertà referendaria viene negata solo per interessi singoli. In Italia è ovvio che si vuole favorire qualche singola azienda capace di lavorare nel settore nucleare e nella distribuzione delle acque. Oggi diventa sempre più importante una mobilitazione diffusa, il lavoro capillare quasi porta a porta, per una corretta informazione sui referendum. Il lavoro dei mezzi di comunicazione autogestiti diventa fondamentale nella battaglia di democrazia e di libertà. Indie Media Calabria intende contribuire alla campagna di informazione per il referendum e per la libertà delle scelte popolari. Per maggiori informazioni sulle iniziative in Calabria, Indimedia Calabria vi consiglia di visitare il sito di riferimento difendiamolacalabria.org. I prossimi appuntamenti previsti per promuovere le campagne referendarie partono già da lontano, ma noi proviamo a darvi lettura di alcuni appuntamenti nella speranza che questa puntata non vada in onda seguendo i nostri famosissimi tempi biblici. Dunque ricordiamo che a Reggio il 23 maggio, quindi fra poco, nel momento in cui stiamo parlando, vi sarà la presentazione della geopolitica dell'acqua, mentre il 24 maggio sempre vi sarà una presentazione del tour in Calabria di geopolitica dell'acqua, mentre il 25 maggio a Paola vi sarà un cineforum denuclearizzato. Il 27, sempre di maggio, ad Acri è prevista un'iniziativa dal titolo Acqua, bene comune da difendere, mentre il 28 maggio a Cosenza sarà presente Alex Zanotelli, che ci parlerà di questioni relative appunto ai referendum sulle acque. E diamo ora lettura di una notizia comparsa sul Newswire di Indimedia Calabria. Il Newswire di Indimedia Calabria, lo ricordiamo, è uno spazio aperto a tutti coloro i quali vogliano fare della libera informazione e vogliano dunque informarci su quanto avviene sul nostro territorio, ma non solo. La notizia riguarda un sit-in svoltosi a Cosenza sotto la sede RAI per garantire maggiore informazioni sui referendum. La notizia è stata pubblicata il 22 maggio, ma è relativa al sit-in svoltosi a Cosenza, come dicevamo, il 20 maggio. Il 20 maggio scorso, in contemporanea nazionale, anche a Cosenza, sit-in sotto la sede RAI calabrese per denunciare la scarsa informazione sui referendum del 12 e 13 giugno prossimi, per dire no alla privatizzazione dell'acqua. Il mainstream, in linea con la posizione governativa, sta tentando di imporre una cappa di obbligo e silenzio per non far ottenere il quorum che convalida i referendum. La battaglia per dire no al nucleare, per dire no all'acqua privatizzata, è anche una battaglia per sostenere il diritto democratico sancito dalla Costituzione italiana, di scelta popolare rispetto all'abrogazione di norme non volute dal popolo. Attualmente si tende a minimizzare le scelte popolari in favore delle lobby di potere e di interesse puramente economici. La democrazia è in pericolo, l'informazione ufficiale è prostrata innanzi al potere, come prova il messaggio di qualche giorno fa del Premier a Reti Unificate per pubblicizzare la campagna elettorale del proprio schieramento politico nelle comunali milanesi. L'acqua pubblica è un diritto, le scelte popolari sono diritti inalienabili, la libera informazione deve essere garantita. Per questo a Cosenza, sit-in sotto la sede RAI in difesa della democrazia e della sovranità popolare. Ma Indie Radio non si ferma qui. Infatti ci siamo recati il 20 maggio scorso al sit-in sotto la sede RAI e qui abbiamo avuto la possibilità di parlare e di intervistare alcuni esponenti del comitato referendario che quindi ci diranno la loro su questa iniziativa e sul futuro prossimo che ci attende in attesa dei referendum. Buon ascolto da Indie Media. Cosenza, siamo sotto la sede RAI insieme al comitato referendario per il referendum sull'acqua. Abbiamo qui Oreste del comitato che ci racconterà un po' i motivi di questo sit-in sotto la RAI. Sì, i motivi di questo sit-in sono chiari ed espliciti. La RAI si ostina a non voler fare informazioni sui referendum, in particolare sui referendum dell'acqua. Anche i programmi più progressisti, mi riferisco a Santoro, ad altri programmi di informazione dell'area di centrosinistra, tentano a fare informazioni di approfondimento sull'acqua e sul nucleare, ancora di più sull'acqua rispetto al nucleare. Siamo qui quindi a chiedere una corretta informazione che ci è dovuta da quelle regole di democrazia che sono basilari, di quelle regole di democrazia legate all'informazione, che deve essere, è quasi un diritto costituzionale essere informati sul referendum, no? Direi io. E quindi siamo qui a chiedere che l'informazione pubblica venga esercitata e venga effettuata in maniera corretta e tenga conto di tutte le componenti sociali che caratterizzano questo paese. Il referendum sull'acqua che si terrà il 12 e 13 giugno, il referendum sul nucleare che si terrà anche il 12 e 13 giugno perché ad oggi la norma non è passata alla Camera e fra l'altro anche se dovesse essere approvata deve passare comunque dalla Corte di Cassazione, il referendum sul nucleare si terrà ed è necessario che ci sia un'informazione massima e che il quorum venga raggiunto perché si tratta di riscrivere la storia di questo paese e di scrivere una storia più democratica per questo paese rispetto a quella che stiamo vivendo in questi giorni. I mezzi di comunicazione locali come si stanno comportando nel rispetto al referendum? I mezzi di informazione locali, quelli autogestiti, sono più che... si comportano molto bene rispetto a questa cosa. La RAI e altre emittenti, altre invece sono, ad esempio TEN è molto, fa molta informazione riguardo questa cosa, ma la RAI stenta, la regionale stenta a fare servizi o ad informare sono i referendum, ma è una storia vecchia, già dal 4 dicembre, quando abbiamo fatto la manifestazione per chiedere la moratoria alla privatizzazione, dopo il nostro servizio, cioè dopo il servizio sulla manifestazione che è stata tenuta a Cosenza, c'è il studio Sergio Abramo, questo è proprio una chiara, che è presidente della Sorica, questo è un chiaro esempio di come la RAI regionale intende informare sui referendum, intende informare sull'acqua. È come se ad ogni servizio che la RAI tiene sull'acqua e sulla Sorica, allora in studio dopo c'è un membro del nostro comitato. Se vogliono accettare la sfida. Un tossicomane, un posto della moda, quello che si dà la storia d'amore, quello che si dà la mia paura, camminare leggero, soddisfatti me, camminare leggero, soddisfatti me, da Reggio Parma, da Parma Reggio, a Modena, a Carpi, a Carpi, a Carpi al Tuvat, a Carpi al Tuvat, a Carpi al Tuvat. sparire una ad una, impotenti in un posto nuovo dell'ACI. Emilia di notti agitate per riempire la vita, Emilia di notti tranquille in cui seduzione e dormire. Emilia di notti ricordo senza che torni la felicità, Emilia di notti d'attesa di non so più quell'amor mio che non muore. Appuntamenti per promuovere la campagna referendaria a Cosenza? Allora, i prossimi appuntamenti saranno tanti, fino al 12 e 13 giugno saremo impegnati in tutta la provincia, in tutta la regione e in tutta la città con appuntamenti di vario tipo, banchetti, mobilitazioni nei quartieri, attacchinaggio di manifesti e volantinaggio. In particolare le iniziative grandi che ci saranno sono il 25 aprile con la venuta di maggio, scusi, 25 maggio con Margherita Siervo che farà un tour in Calabria e il 25 sarà a Cosenza. La mattina sarà a Catanzaro e la mattina in contemporanea all'università ci sarà un intervento nell'ambito dell'iniziativa di Ponte Radio e il 25 pomeriggio la Siervo presenterà il libro Geopolitica dell'acqua alle 16 in P2, in aula occupata nell'Università della Calabria, alle 18 ai capannoni ferroviari, all'ex officine della Calabro Lucana a Cosenza. Il 28 in piazza alle 18 ci sarà Alex Zanotelli che farà un'iniziativa pubblica di ampio respiro in cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. E non ci resta come Indie Radio di fare i nostri auguri e speriamo di vincere tutti insieme questa battaglia. Indie Radio vi saluta e vi aspetta alla prossima puntata. I'm going crazy. I'm going crazy. Crazy.